Zolt. Fulminati in azienda. Senti Marta, mo mi spieghi che sta a succede. Ma cosa? In che senso? Marta, è 2 giorni che sul pezzo non si vede. Allora, l'altro ieri si è andati a fare i sopralluoghi. Sì. E poi io non l'ho più visto. Ieri c'era il traffico, oggi c'è di nuovo il traffico. Ma perché non viene neanche oggi? Ecco, guarda qua, è una mail che mi è arrivata stamattina, leggi. Carissimo Centri, purtroppo le avversità mi tengono lontano dall'azienda. Del resto, come diceva Confucio, se le avversità ti avversano, tu non avversarle. Ergo, anche oggi non ci sarò. Ecco, a Marta, ma che sta a succede? Centri, ascolta, reggiamo il gioco. Siamo noi una squadra, un tutt'uno. Marco ha voluto a tutti i costi proseguire il sopralluogo per scegliere la location del sales meeting, lì in Riviera. Ma sta con la Urlo? Ma come puoi pensare una cosa del genere? La Urlo era grigio, era triste, era vuota. E allora Marta, con chi sta? A me lo puoi dire, dai, Centri, con chi sta? Solo per il rapporto di fiducia allora, che ce l'è. Dai, di. Quando l'ho lasciato era con l'account della nuova agenzia, la G-Point, una ragazza veramente in gamba, come anche Marco ha riconosciuto. E chi sarebbe sta ragazza? Una giovane, si chiama Svetlana Popovic. Svetlana Popovic, ma lo sai che anche se non la conosco mi pare pure a me che sta ragazza in gamba? So perché, ma deve essere intelligente, Svetlana. Buongiorno a tutti, benvenuti. Buongiorno. Buongiorno. Siamo oggi qui su richiesta del nostro direttore generale per fare un brainstorming che ci permetta di dare il corretto briefing ai creativi che ci cureranno la nuova campagna pubblicitaria del prodotto di punta, l'X900. Scusate, ma come mai sul pezzo non c'è? Dico, vuole sempre controllare il briefing da dare agli esterni. Immagino abbiamo la sua autorizzazione. Schedule, non ti preoccupa, se siamo qua è perché ci potremo stare. Volevo ringraziare di avermi coinvolto anche me nella riunione, anche se sono stagista. Bravo. Bravo Bacco, ringrazia e però mo sta zitto, eh? Allora, abbiamo in collegamento telefonico anche lo Squalo, quale referente della forza vendita e profondo conoscitore del nostro prodotto. Ci sei? Ciao carissimi, buongiorno, è bello stare qui con voi e partecipare a questa bella sessione importantissima di lingua inglese. È un brainstorming, Squalo, uno scambio di idee in libertà. Bella fonte in libertà come ai tempi del liceo, rutto libero, senza alzare la mano, mi piace, il vostro Squalo c'è. Dare per via, quando volete. Bene, allora iniziamo. Obiettivo della campagna è rilanciare il nostro X900. Ah vabbè, se mo dicevate allora me ne andavo a mangiare a Dananda. Sto prodotto non se venne manco a regalarlo con l'ovetto del cioccolato. Come lo dici, è il prodotto, fa schifo. Sono d'accordo, però Marco ci ha chiesto, dobbiamo rilanciare le vendite. E perché non cambiamo prodotto allora? Oppure se posso, scusami, tutti esimi dottori, lo se nascondi ben dentro a qualcos'altro, come se fossi davvero il regalo dell'ovetto. Bello, ma che bella idea. È il prodotto a sorpresa? Ah Bacco, te l'avevo detto, è sta zitto. No, guarda, no? Che invece è interessante. In pratica quel che conta è quello che c'è intorno, che c'è fuori. Cioè, state dicendo che quello che dovremmo fare è un bel pacco dentro il quale nascondere l'X900? Praticamente sì, e vendere il pacco a caro prezzo. Bellissimo, ma con l'etichetta o senza l'etichetta? Dobbiamo pensare. Potremmo lavorare su una idea di scatola multiforme, multicolor, in cui il prodotto si vede, non si vede. Un packaging, diciamo, che dica ma che non dica. Scusate, se posso dire la mia, è meglio che non dica ed è meglio che il prodotto non si veda proprio, eh? Che gli volevo rovinare la sorpresa. Grandissimo Centri, allora? Ah Marco, ma dove te sei cacciato? Penso che un sogno così non ritorni mai più. Ma Svetlana t'ha data la testa. Piano minuto, non nominare in vano il nome di questo fiore, di questa ninfa, di questa sirena venuta dal mare. È bellissima. Te credo è ma bellissima. Ma cos'hai capito? Te credo. È bellissima l'idea della campagna pubblicitaria, Centri. Nascondere il prodotto che fa schifo dentro un involucro meraviglioso, è geniale. Ma ti piace davvero? Ma certo che mi piace, Centrifuga. È poi un'idea socialmente responsabile. Trasparenza, vicinanza al consumatore, attenzione al cliente. Ciao Centri, ci sentiamo sì, presto. Marco, scusa la domanda, Marco. Dimmi. Pensi di tornare prima o poi? Come prima, più di prima, tornerò. Se vuoi saperne di più, www.zoot.tv 3Z 2O 1T.